Beccato, ne avvette. E chi è questo? Sempre il numero uno. Numero uno, e chi è? Ui, Claudio! Buonasera. Numero uno, che c'ho garagiura, meno che c'ho gruppo forte. Ciao, Gianmarie. Perché, mi senti? E a voi la siete intendo, gra. Allora, è Mastro Donino, ho sentito. E evidentemente sta riposando, da oggi in fine. Da oggi in fine. Ah, addio, mi ha lasciato gratta la banza. Vai, buonasera a tutti. Vedo che la si buca la vendi. Ui, boioso. E me, puttanoso. Ehi, arrivi anche tu, non c'è problema, vi ascolto todos. E io c'ho un'antennina piccolina, dai qua. Però già c'è la radio che è consistente. Ciao, che Gianmaria comunque. Beh, amici che mi sono scindato. Gli ho detto, quanto è tardi. Come c'è stato così alto? Boh, vedo da travagliare, poi ci sono, faccio con i figli da oggi. Beh, e non prendo il mio c'era il manzano, era di sera. Penso quanto ho dormito, da bello profondamente. Magari stavi sognando. Ehi, no, c'è un caldo allucinante, non si può stare manco fuori, infatti io sono dentro. Non si può, o ciabaro tempo, o eroga giamba tutto. Troppo caldo. Beh, non può dire voce alta. Avanti, Giovanni. Un attimo che c'è gente. Avanti, Manuel. Avanti, si è scendato, donna. Ehi, sono ancora appoggiato a letto, che. Ho acceso, ti ho sentito. E da là entro, e poi invece è entrato Claudio, adesso è solo entrato. Te ne immagineggi, Gra, sempre riposendi, Faccio riposare, lui si alza presto la mattina a produrre. Finalmente si riposa, e allora siamo a posto. Almeno un caffè, la mattina se lo può prendere, senza avere rotture di balle. Hai visto, Manuel, che bella macchinetta, che con l'aria condizionata, che. Una bella macchina, sì, che nuova nuova, bella sì. Stava a dire, quelle zone sono passato a trovare a Manuele, che, con la macchina di servizio. Lì dove abita Manuele? Eia. Ah, quindi eri lì, in quella zona, al lavoro? Eia, tanto so, ho già finito di lavorare e devo andare a prendere l'altra panda, mettere il servizio in posta. Sono arrivato, poi già ho finito l'1:15, Sì, già va bene. Io prima delle 2:10 non finivo mai, anche perché dovevo timbrare alle 2:10, quindi. Anche se per dire finivo all'1 di fare tutti i giri, i controlli, eccetera, dovevo fare orario sino alle 2:10. Dovevo rimanere riassorso all'impianto e poi timbrare e partire. Rottura di scatole. Niente, ho dato gli auguri a tutti, mi sono preso il telecomando, perché adesso il 18 che è martedì prossimo e il giovedì prossimo che siamo in fine, io lavoro, cioè vado, prendo la panda, faccio un servizio posta a Baldinca e poi a Palazzo Provincia, Piazza Italia, e poi riporto tutto indietro e poi la macchina a posto, perdo se no un'ora qualcosa e sono una giornata pagata. Sì, allora, va bene, riprendi Emanuele, dai, che mi assento un attimino, mi rinfresco, se ci siete io sono anche qua, anzi diciamo che sono più qua che là è tutto spento, però questo è acceso, ok? Ok, qua, ci sentiamo, dai, buona rinfrescata, vai Tony. Ok, Buco X, sì, ci ho medicato comunque, cavolo. Io vero, me ne accorgo che c'è il ventilatore qua acceso. E ma troppo piatto. E mi ha squillato il telefono e me l'ha scintato. Quando mi sveglio di colpo non prendo se mattina o sera. E chi è che ti ha svegliato? Non lo sai. Quella di Tirgo. E basta che la lira. Fa dicendo, non ho assistito perché. Ho capito che stavi riposando, ma se l'avevi capito non mi chiamavi neanche. andava. E che mi caccia ne faccio? Ma non più di tanto, dai. Ma se la panda era nuova nuova, ma non si metta che un frecco dritto, che aspetta, mi piace bene la panda. Vabbè, diesel, multijet. E che panda? Quello della stessa dell'azienda. Noi abbiamo tutta la macchina nuova, abbiamo adesso. Per fare il servizio posto prendo la panda io. Ho lasciato quelle, il furgone, il doblò, a una parte, chiuso, 100 chilometri. Ma che si va a richiamare non era una panda, era un doblò, era. Yes, ho lasciato il doblò, ripeto, sotto le garage, chiuso da quanto, con 7 le chiavi. E poi ho preso la panda. Adesso ho il telecomando, che martedì prossimo vado, apro il cancello, prendo la panda, ho già le chiavi dentro. E faccio il servizio postale. Ma qual è la panda? Quella al modello nuovo, quella lunga? Era un nuovo sì, cavolo. Ci abbiamo, mi sembra, un anno e mezzo, 2 anni, non di più. E andare. Andare. Gio Maria, sì. Ma Gio Maria è parito. Tu mi dai niente, via. E così Torino sta facendo caldo. Ha giù un bucato musichi da fuori, che se ne ha di aggaccia. Ma secondo me c'è incendio in circolazione. Beh, senza ombra di dubbio. Mi torno il telefono. Cazzo, chi ti vuole tamparare la camera cane? Dove sei meno 10? No, non rispondo. Sono ancora il catto. Cazzo, è già una palaccia tra un cane. Eia. No, almeno per le balle quel cane, se mangia un turmagna si mangia, meno troppo magna. Che cazzo è già la giovinca, un palloncino è sul cane. E allora, e poi cazzo... allora, innanzitutto il cane mio non lo vuole, cazzo. Perché non lo vogliono. Cazzo è già, anche lo Gianni. Anche il cane c'ha paura comunque. Cazzo, non smettono, diciamo, che palle. Sì, fissa che non rispondi. No. Se le buttate non le vuoi già. Se viene qua rimane con me è diverso. Lì non può lasciarmi il cane e fare il suo che pare piazzaetta, no, le balle. Se rimane qua mi sta bene, sono. Cazzo, meglio l'organo, che da buono lasciare l'altro. E allora, a turno va, se la bacca all'altra, no. Lavoro tu la bicicletta, se la devi pedala. E lo lascia in casa sua. No, non può lasciare casa sua. Perché se lo chiude dentro, se la mamma si incazza. Anche lì mi sento la casa che mi c'è di caga. Comunque mi ha fatto così, se te lo usare dentro. I miei sono sempre fuori. E quando farò il bisogno lo farò fuori. Ma sei abituato, lo gara non ti brutta. No? Ma infatti me non sporca niente in casa. Però lì non è a cortile. Lì c'è un passaggio che è un seminterrato, scende giù, è tutto aperto e c'è un'altra famiglia, quindi se lascia aperto, c'è, anche se c'è il cancelletto sopra, e se chiede un po' cagare anche fuori, capisco, e si incazza le chimici, c'è il condominio. Andare bene meda, bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum Beh, stasera non è venuta. Comunque sono in ferie da domani, non la Uccia, che io già ci trovo. Da domani sono in ferie. E vabbè, da oggi si andati in ferie, no? E poi già ci trovo gli altri, Sì, è lavorato, però le ferie te l'hanno date da oggi, da stasera. Doni, da domani, oggi giornata lavorativa, scegliono la signora e guardate lavorate, capito? La busta paga. Da domani cito F in ferie. E la Buio 24 riprendi. No, lo 25, mi sono messo il giorno di ferie. Andiamo a dire ferie del biglietto. E beh, per forza, un giorno di permesso retribuito, perché ripeto, già lo sai, il 24, no? E a me non mi va a gare a pagare quello di un re di veloce, no, no, no, mi ha pagato prima. E ma lui conviene partire, cosa vuoi partire di mattina? No, avremo se metto di abbono, e se posso, ma a trovare qualche monese. Ma chi vi vale in musaccia, vale? Come te sei mattina? Sei un minaccio. Niente, quando noi partiamo anche mezzogiorno e mezzoluna va bene, dai. Al massimo le due, no. L'una e un quarto, dai. L'una e un quarto? Sì. Andiamo calmi. Quando arriviamo alle tre abbiamo fatto 13. Io vivo un'ora e mezza di seguirmi. È un'ora e mezzo. Quindi già va bene. Andavessi, vediamo un po' se è arrivato Gio Maria. No, non c'è. E io mi sono dimenticato dati le fascette per Marino, che domandate di la chiamare. No, me l'ho già inventato io. Domandate già, me l'ha inventato, sì, babbo. Me l'ha inventato, non te l'ha inventato, vedo che vi doveva regare. Me l'ho già dimenticato, pensavo che me lo ricordavi tu. Io sono tu peggio di te, lamentami una cosa. Tanto lui c'ha sempre la zona tua, no? Là? La tua zona lavora. Sì, sulla zona mia no, più o meno sì. Vabbè, comunque, io te lo lascio a te così vado in basso, vedrai. E tanto già passa lì. Adesso anche lui, il 24 mi sembra che va in ferie lui. Il 24? Rientra il 24? No, va in ferie il 24 lui. E capita, e trovi a Ferragosto travaglia. È così, e poi rientra il primo di settembre. Dove ti dico? Io pure travagliavo Lidi di Vica, Nadari, Caporanno, cazzo, tutti Lidi di Vica travagliavo io. No, noi rispettiamo le festività, quelle si chiude, giustamente, anche le scuole sono chiuse, quindi. Beh, vabbè, tutto sarrato. 15 è Ferragosto e Fesciaburo. E dove sei il 15 tu? E dove sono, secondo te? Boh, non lo so. Mi sono lì ricoverata, poverina. Ma che, quella di vicino a casa? E io. Mi è salita la pressione all'occhio, anzi dopo cerco di telefonare dove essere operata, e sono tutti i vasi capillari all'occhio, adesso c'è il glaucoma e lo devono operare, ma è tutto così di colpo, boh, e uno ci non vede, che sei casino. Beh, si manda di me. Grazie. Può venire a chiunque, ha detto, beh. Che tu, e prima che non venga pure a me. Ma da che cosa è venuta questa cosa qua? Colpo d'aria, cosa è? No. L'ha preso un sbalzo di pressione. Il punto più debole è l'occhio, se no poi farsi capitare. Boh, e non vedi nulla. Tutto un ruolo di sangue per via. Cazzo, mamma mia. E la buona di mamma l'ha avuto anche lì, l'ha avuto, capito? L'ha operato e fate il glaucoma. E anche il cristallino e poi le cataratte. Ah, bisogna da pure le cataratte, le insofferenze. Allora è roba di famiglia. No, non è che è roba di famiglia. Ho già chiesto e lì ha chiesto lo stesso e ha detto no. Può venire a chiunque. Non lo so. Credo che non venga a me. Cazzo, già sei con Bocio Mari. No, a una certa età, dice. Bisogna avere già 70 anni per me. Comunque, è una cosa che può venire a chiunque. Come ti dico l'euritma, diciamo che ti impacca una vena in sabito e muori di colpo. Purissimo può venire a chiunque. Ma sei malattia, per carità. Non sono malattie, Emanuele. È come ti uno che può venire l'infarto di colpo, ecco. Capito? C'è quello fulminante e muore di colpo, c'è quello che invece c'è un po' di tempo. Poter pidare dei sempre. Ma se si blocca una vena, che ha dato servito, beh, ciao me. Cazzo, sei visto. Chi è che vuole entrare? Chi è che vuole entrare avanti? Ma senti io, tra, boh. E una specie importantina, Se mi trae entra, se no. Fatti se tu, beh. Se no che buono di importantari, bisottone. Di importantari. A noi pare che come a Sciubarà una frequenza più pulita ancora. Beh, non è che vi sono portanti, pensano che a Giumarvi sono portanti. Giulia, ti sto dicendo, sono andato a discorsi poco fa, ma dopo mi dico, Giulia, questi discorsi che non sono manco metti, cosa abbiamo stasera? E boh, adesso. Non lo so, Tony, cos'è oggi? Oggi è giovedì, Yes. Non lo so. Va bene, dai, più tardi passa, poi decidiamo. Sì, ma non lo gaccio. No, ce lo frecco, ma non è. 9, 9 e mezzo, quello. Ah, cazzo, riesci a volare fuori per caccia ancora. E beh, oh, cazzo sono uscito, da Travaglia ho mai bagnato una sidra in tria, quella cammina, però mi rolita, sono bimbi. Cazzo, la sidra in tria. E tu te va, chi è che vuole entrare? Il galapenese. Chi è che vuole entrare? E da mettere in basso non ci tiso, bu. Io non sento, dai. Chi vuole entrare? A proposito, allora sai cosa mi è successo? Cioè, è successo. Arrivare mi telefonava, ma che ora erano? Le 9:30, 10. Ma roba è 4 zigomorti, Manuè. Si ti dia, fa vedere, non c'eravamo. E poi si arrava, bu. E chi era? Gianni Capri 2. E non siamo via. Non lo so, forse era un freco. Poi si vaffanculo, boh, forse per gli partire la chiamata, non lo so. Vediamo Gianni, oh, e Gianni Magni. E infatti ci sono questi avvicinamenti. E Gianni Magni. E cos'è che si è portato a dire? E Gianni Zoggi. Ti ha detto, buona che abbaltante. Oh, ma Manuel, non fai nulla e basta, pio pio. Sicuramente c'era qualche portato di vino. Allora, quando si attrinza come te noi, allora vuol dire che noi ci abbiamo canari. Ma, di tutto, ma no, ci abbiamo. Beh, zicco, ce ne andiamo nel canale di Suez. Canale proprio qua al saldo, che non entra più nessuno. Beh, senza mai dubbio. E poi mi ha chiamato il suo vicino, mi ha chiamato, e ho detto guarda che ero al palazzo quando mi ha chiamato, non sto lavorando, insomma ci sentiamo dopo, dai ci sentiamo dopo quando entri, ci sentiamo dai, che era 23, e vabbè ciao. Ma ascolta, quando siamo andati là per quella roba là, non ci sei andato ieri, no? Che ha detto che glielo portavano. Ha detto che mi ha detto una bugia. Che ti ha detto una bugia? Si è parlato di Cimicino. No, non parla, non di lui. Quando siamo andati in quella parte là, che stavano cercando quella roba lì, che ti ha detto, mi arriva domani, me lo portano domani. Tu non ci sei andato ieri. Ma lui è totalmente confuso. Boh, che cosa? Boh. Cazzo, siamo andati da Clarita, Ghidda. Che c'era quella là, c'era con quel ragazzo seduto. Quella là con un ragazzo seduto. Dio mio, cazzo. Oh, siamo andati lì a Pedanieda. Ti ricordi, fa un po' di memoria, di fronte alla sala Giucchi. Allora. Sì, no, non ci sono andato, l'ho dimenticato. Che lo doveva portare, te lo ricordi? E quanto hai preso? 25 euro? Non so, quanto ti ha detto? E 25 euro, vale. Che lo doveva portare? Ma cos'era portati lì là? Cosa? Ma come c'ho io, E lui cosa ti ha detto? Che era come quello lì? Non me la metto più, Manuè. Io non so se ti ha detto che era come quello lì, perché io ero in fondo, non so cosa ti ha detto. Ma tu non me l'hai ricordato pure, boh. Io ho tante cose per la testa, eh. Lo doveva portare ieri. Io pensavo che eri passato a vedere. No. Mi si cito il capo. E magari sarà come quello là. Che se come te lo mio, se abbia luci. Vabbè, guadagno. Che guadagno? Cazzo, ma che ci hai sbagliato io? Boh, no, appena lascio guarda isolo, diverso sì. A te ti va bene un veicolare, portatile sì, va bene per casa, ma per macchina, per portarlo dove vuoi. Un veicolare va bene per casa, perché il portatile è scomodo, stare con... Ma se no devi avere un microfono esterno. Io ieri spazzolando, ho visto quello lì, infatti mi ha dato anche coso, 55 euro. Se è quel prezzo lì è buono, cazzo, pigliarlo subito. Ma io non mi fido delle carte di credito, capito? Non va da me. Tu dirgli se fanno cose per pare. Forse pigo, sai. Sì, PayPal lo fanno, oppure carta di credito, però a me dare il coso così, boh. Ah, tu gli fai le cose della... ti manda lui le cose della carta sua e tu gli fai la ricarica e poi ti spediscono la merce. Sì, mamma noi, a mia nipote l'ha rimbucciato 400 euro, questo PayPal, però infatti era comprato un telefono a un figliuolo. Da fuori e ha perso il denaro. E capito da fuori. Alla figlia di qualche abitante bretellina, a Carmena, che è rimasta a scuola. Cazzo, gli hanno rubato, fregato 400. Sì, sì. È andata a Carmieri, cioè non si può fare niente. Cazzo, ecco perché io non mi fido. Mentre invece, come il baracchino, a me l'ho fatto ben volentieri perché c'era... talmente banca e banca, allora fuggi. Allora devi andare a fiducia allora con queste persone. E presti. Ma tu come fai con questa roba? Usi la carta? La carta? Se non hai giù carta io. Come non ne hai? Ce l'hai, quello che te l'ho dato. Allora, se... aspetta, abbasso qua. Se devi prendere una cosa, loro ti danno il numero della sua carta, no? Praticamente tu vai con quel numero lì e vai ad edicola. Basta, devi fare. E tu ti sei fiato. Vabbè, a me non me l'hanno fottito. Ho visto. Devi andare, te l'ho detto, devi andare a coso. Devi avere fiducia uno con l'altro. Fiducia. A me, non so come, ma ne è fottito un bellino, cioè fottito. No, perché poi la banca, a me non mi ha pagato neanche 5 franchi. Io ho fatto la carabinia, ho fatto la denuncia. Ed era roba di cinici. Boh, infatti pure i carabinieri sono meravigliati. Che serie. Vabbè, ce ne sono tanti di questa gente qua che frega. Un bel. Bisogna stare attenti, infatti. Cioè loro hanno un sistema cinesi che provano tante carte di credito. Quando poi anche a casaccio, poi hanno cosa come fa vedere i film addirittura per trovare il codice segreto delle casse forti, eccetera. Loro farò con le carte di credito. Quando azzecca trova una, a me mi pigliavano 6 euro 70. 12 euro, 4 euro, capito? Cazzo, figurati. E non lascia pane mai. Poi l'hanno bloccato e io ho la denuncia immediatamente. Anzi, mi sembra che mi hai bloccato di tutto ormai di 600 euro. Vai tu. Però la banca non è che abbia pagato perché risulta tutto il tabulato. E ho detto sì, ma voi perché mi avete chiamato dopo che c'era la prima cosa della Cina. Invece no, sì, si vedeva che era una cosa strana, tipo Shanghai, Masuki, Hong Kong, mi lamento. Manuele. Ehi, Antonio. Arrivederci alla polizia. Ecco, vedi, ma non ti dico io più. Ma intendi, nello dici, nel casino. Non ho capito. Nello dici, abbiamo un casino, fruscendo a tutta andata. Ega. E cosa ne dici? Beh. Ma dove? A 10. Sì, sì. Sto fruscendo a tutta andata. E basso basso? E no che nubi. Col bifo finale? Sì. Per poca zio non beve? Niente. Ah, vai, traghito, viene buono a fare di ex. E se l'attacca a coglione il radio, la bu. Con l'antenino in gomma siete? No, io no, lo cla. Tonino? No, io ho l'antenna quella fuori. È strano, però l'antenna non c'è più nuda. Siete tutte e due senza segnale. Radio perfetta, non è frusciata, apri bene lo squelce. Però segnale non ce n'è cazzo. Voi metto sotto la radio, non c'è più l'antenna. A me bene mi ascoltate. Sì, con Remi ti ascolto. No, io ti sento bene qua, Claudio. Ai ai ai ai ai, no al pittur. Allora che cosa non andano Noghi? Questa antenna non va bene. Ma che antenna stai usando? Una X50 attaccato all'albero. Dovrebbe andare bene, io ti ascolto bene comunque. Ma non avete segnale per darmi, io ho una radio grande, non c'ho un portatile. E non avete segnale, si accende solo il busi, praticamente l'apertura dello squelci, ma non c'è segnale. Strano. Sì, sì, 5, il segnale te lo do, sei 5, ma la radio è 5. Anche voi siete 5, tutte e due di radio, perfetti, ma non avete segnale, Baro, quindi per che cosa che non anda? Segnale 5 con questo tipo di antenna non va bene, io vi vedo a tutte e due, vuol dire c'è qualcosa che non funziona, che non va. Io qua il segnale, Claudio, non ce l'ho, sento la radio però è leggermente un fruscio RM sotto. Ci conferma, dai, c'è qualcosa che non va. Adesso esco a controllare, a vedere. Non si sa mai chi Rugani ha giocato qualche mossa Rugava e si è già magnato. E capita. Adesso era magnato il BL. Se Rugani ha musicato Rugava, il buono, il BL non sedere, invece più forti. No, allora lo buono che cura in pippa le forze l'antenna. Dai, poverino, cazzo. Tu immaginate che quando si solleva dritto, non quello mio, è quello di mio genio, quando si solleva dritto mi mette i piedi sopra le spalle, io gioco 1,72. Ma Ocla, stasera ci vediamo? No, non lo so, ti mando un messaggio. Comunque quando è... usiamo il telefono, ho capito, anche io che ho bisogno mille orecchie, non mi va di stare. Comunque ci sentiamo al limite più tardi. Perché dovrebbe venire gente, se non viene gente ti avviso. Ok, d'accordo, dai, rimaniamo così, ci aggiorniamo, trovate bassa. Ehi, ehi, però quando usiamo il telefono WhatsApp, perché no, capisco, mille gabbi, mille barretti, capito? Poi dice che facciamo comunella e fermo giaramenti. Ma, mi pure giaramenti, non me la fotti nulla. Io entro dove voglio. Poi, c'è bella propagazione sul 27. Ah, tutto spento, non ne accendo, non me la fotti nulla. Per ascoltare l'URM, non c'è più nessuno, c'è che accorso a lampazzi tutto lo gommo. Ma se nell'odese c'è uno, fruscendo a tutta andata, ansura. Sarà qualche due in macchina, fende di ex, boh. ma sarà sotto a casa tua, chi no, che l'URM, mia ba, l'ho acceso, mi. Mi, solo l'URM, boh. E qua, Santiago 8-9, di tanto arriva uno fischiando col bip finale. Ma è basso. E allora è dalla parte vostra, perché da me non arriva neanche. T'ha giurito, vi faccio QRM, o mi? Ah va. Solo QRM c'è. Adesso c'è QRM, se tengo 4-5. Però ogni tanto questo fischia. Ma è più pio, proprio non dà fastidio. Sì, vabbè, procede, può frusciare pure un altro rughi, dai. Cazzo, troppo caldo c'è, ragazzi, a stare qua dentro. Io vi voglio bene, però so qui ciumende, Mi sono buttato adesso in acqua, adesso so d'ora tutto sudato. Me cappa. E io troppo mi alzo che ha cucato, no? Non avevo subito. Ho riposato anche troppo oggi. Continua con Manuele, dai, che controllo a vedere se è l'antenna davvero, perché c'è qualcosa che non mi quadra, dai. Un attimino solo. Ok, avanti, bimbi. No, torna Barugani, no, non rispondo. Cazzo, cazzo di tagliere ha fatto il suono al cellulare. Deve andare a trovare, c'è un qualche so. Cazzo no, Cazzo da bui, io non so. Cazzo l'uraga uno, l'uraga all'altro, ui. Gianna amici, l'uraga amici sui. E allora? Quando poi un po' che giorno mi chiami, ma ti dico, e poi era addormentato, non è il giorno, non è di giù. Il telefono è in carica, in cucina, con il cate che aveva letto. E beh, la barabas. Non è barabanno, mi ha chiuso meno male. Mi devi dire, se no con la piccheria in mano non posso rispondere. Che cazzo mi hai dato la piccheria in mano? Hai visto quel tubo che ti ho fatto vedere, Emanuele? Con quelli che ne voglio mettere due di quelli lì. Fai puttana di scuola. storra, cazzo. Praticamente non va bene quello lì, Tony. Devi prendere il braccio che attacca al palo e rimane staccata dall'altro palo, capito? Ce l'ho il braccio, ma io uno solo, io volevo mettere due, ma non è. Sì che va bene uno, mi. Ma... E mantiene sopra un braccio, mantiene? Beh, è gatto braccio lì, lì puoi buoni. A lui puoi buono mio. Ma, ma ce la farà, mantiene, Ma se le zira ce la farà, ma buffonendo sì. Vabbè che non pisa, ma... Se è una cosa bisa, un chilo, mi manco un chilo bisa, sant'anni. C'è l'ora che il vento può manda giù, capito? Con due palle mantiene di più, mantiene con due bracci. Se tu gli metti il braccio, quello a L, quello che va attaccato al palo dell'antenna e l'altro che sporge, cosa sporge? 60 centimetri. E lo attacca all'altra antenna, buh, non è dei buoni acri di Bari. Io sto pensando di mettere due di qui, andare a Brico a comprare un altro uguale, buh. Cosa? Sto pensando di andare a Brico per comprare un altro di questi bracci che ho, prendere due. Cioè, uno ce l'ho già, prendere un altro, buh. Ma lo è? Ehi, Claudio. Ehi, ma io lo fa vedere, no, casotto. Guarda a vedere se mi ascolti meglio adesso, c'è la PL staccato. Cazzo, allora sei 9.5. C'è bomba, ca. E c'è la PL staccato, dito di raggio io. Il suvigliolo di buona mamma deve essere che giocando, siccome c'ho il capo in terra che è provvisoria, se la sei giugendi, se la, lo scavava e l'ha svittato, capito? Cazzo, il piede con i bruciare finali. Ma io già me ne accorgo, queste radio sono quelle grandi amatoriali, quindi già me ne accorgo io quando c'è qualcosa che non va. E infatti ci dico col QRM ti sentivo io. Ma va, già no, ci sento bene. Siete più o meno con lo stesso segnale, dai, prima non avevate segnale, adesso sì. E adesso c'è bomba che tu. Ma stanno di varia per pedua. Ah, ma le posso anche il goffio. Lascia vedere se ve la vasi. E ma quasi ne siamo pensato. Si è bomba come Emanuele, raga. Ehi, vabbè, questo è, non è un giocattolo, no, Tony, te l'ho detto qual è quella amatoriale. Me la sono portata qua per ascoltare un po' di VEU. E mi ho memorizzato anche questa frequenza. Capo, già va bene. Avanti, Emanuele. Ma tu non mi ascolti perché tu? Adesso non ti ascolto. Se mai ci vicino a casa. Non vi credo, no, raga. Quella lì ti tira tutta la sera così adesso. Il telefono ce l'ho in casino, me lo lasciate in macchina mia, bisogna dormito, ecco. Bravo, bravo, bravo. Ma com'è non va baracchino? Cazzo vero. Allora, io baracchino devi assillare proprio la borsa di gomme Samà, come ti dici? Ehi, maledetta, apri il cancello, che devo andare a lavorare! Cazzo di riuso, No, ma non è, cazzo me che sugare non mi piazzo. Ci vai in tour maniera di canemica. Cazzo, non finì più, no. Boh, all'interno. E poi è troppo grasso. Cazzo un palloncino, ma per voi stai mangiando tutto magna. Il macchino c'è me ne della plastica della magnete. Basta, qua. Dalli la differenziata, ripulli di plastica, così non esce a fuori, vedrai che ci rimagna. Ma lì la cosa di macchina c'è tutta la plastica stai mangiando. Cazzo che c'è incazzata, Andiamo, beh, andiamo. Ma pure ci ho lasciato a calciare la bicchia, non si è messo a calciare l'onchi. Aspetta, mi sta chiamando mia moglie. Comunque, Emanuele, confermi che adesso va bene tutto? Cazzo, 9.5 qua, sì, qua. Cazzo, la radio è super 5. Vabbè che ce l'avevi anche prima, radio 5, però il segnale è quasi di terra a terra. Io, vabbè, sto usando il microfono normale, posso mettere anche l'MC60 qua, già capito che radio è. Non ce n'è problema. Capito, però dai, la lascio stare così. No, importante che vada bene il segnale, non mi interessa la radio, intanto la radio lo so che esco bene. Il segnale perché il suo imbecille si ha rotolato tutto l'ugavo e va a prendere qualche pallina. Sì, no, comunque va bene adesso. Vai tu. Stonino sicuramente gli ha risposto al telefono. Aspetta un attimo, dai, mi sta chiamando mia moglie, arrivo. Beia. Ma lo è? Ehi, Tony. Ma fottito. Fottito. Il cancello aperto, è arrivato fin qua. Ah. È uscito mutante. E vabbè, dai. Aspetta, per il cancello li apro. Ma cazzo, devo cercare qui. Ma fa culo, là. Boh. Avanti, di grazie, organizzo. Purtroppo sì. Mi sono cancello, cazzo. Boh. Dai che devono lavorare, ma va a fare un culo. Lì mi sbocci il cacchi, cazzo, ha messo il cancello, cazzo. E l'uomo ha così sciogare. No, che era... il cancello da giù della strada, capito? Uno è della sera, la vita, l'ha messo il cancello, è entrata, arriva da me, l'ho visto io, ha aperto il cancelletto, ha messo il cancello dentro, ha chiuso il cancelletto, cazzo, boh. E mi chiamava Antonio, dai tu. Si sciuga, sta allucinante, boh, boh. Ciuppa ciuppa, magari chi c'ha voce lo canadese, mi pare Marino, mi pare, Marino! Io poco fa si tocca la voce di un ragazzino, boh. Allora, nel 10. No, io sono fatto volume per uno va vedendo. Attento, boh. Ma mi pare un po' colinché dentro. Boh. Se l'ha fatto anche il cicchetto. Così la va vedendo, boh. Non so chi è. Mamma mia, come sto? Ma voi lo sapete quanti gradi mi sono fuori? Io ho messo il termometro fuori per rendermi conto. Quindi dentro io ho 23 gradi. 23 e mezzo. Fuori ce ne sono 32 ancora. E c'è in mare. E qui c'è da schiumare, me. Da schiumare c'è, cazzo. Boh, io non riesco a comprendere. Ci devo mettere tutta volta così. E non mi picco, che. Oh, ma dito, ti stavo sempre chiamando. Ma tu eri addormentato, è mutato, mi è strumito, ci ho fatto via. Cazzo di a... Ah, così ti ha detto, Tony, ti stavo sempre chiamando, e tu non ve l'hai detto, ho buccato, stavo cambiando la ruota. Ah, io stavo intorno e mutante, vabbè, già mi conosci che è mutante, perché più di una volta mi chiama di notte, e io posso venire a casa tua a dormire, vieni. E quindi, capito, una mano lava l'altra, due lava la faccia. E tu devi mantenere la mutanda, è stesa. No, una, comunque in gamba, ma non l'hai già la vista. Ah, Manuel, cosa dici? Sì, già va bene, dai. Va bene, Manuel. Ma cosa mi si menta? Oh, mi ha scritto il messaggio, sono a casa tua. Ui, ui, ui. Ah, io manco ho visto lo giù telefono. Cazzo, manco male... Non hai detto che non vedo a casa. Non ho riposo, non ho detto nulla, Manuel. Ha detto, succedo una scusa, non ho sentito il telefono, è addormentato. Scusa, ma il cancello che l'ha aperto? Senz'altro è il mio vicino. Per culo, stava rientrando anche lui. A me provo un altro microfono, Manuel, per se esce bene di radio. Ui, ui, ui. Mia galore, lui che fa il gas a vino. Cazzo, è la polizia. Cazzo, ti sei entrato così, che casinera. Cazzo, ma io non lo sapevo, magari. Anche voi lo sentite, ragazzi. E beh, c'è una trasmissione. Cazzo, che bellino. Ah, mi senti con questo microfono? Ehi, a voglia. Ma c'è meglio dell'altro o peggio dell'altro? Per me è meglio l'altro. Vero? Questo è un MC50. È da tavolo, però è, come si dice, normale, non è amplificato, capito? Sì, ma questa radio per me è migliore, poi vabbè, ognuno la interpreta come vuole, come lo sente. Io ti sento più calmo, più tranquillo, se l'altro è più forte e più amplificato, quella è più chiara però. Oh, vabbè, mamma mi piace i forti, i burinoghi. No, questo è da tavolo, cazzo, non mi piacciono i microfoni normali a me, capito? Ah, capito, a lui piace i forti, no? Allora mi un po' da zitto, i più forti. No, di radio, a me non mi interessa il segnale, mi interessa che la radio sia buona, capito, che sia forte, mi. Se è bassa, mi devo avvicinare al microfono. Già, ho capito, claro. Si date più amplificata, molto di più, certo. Allora, nello buco, questo, dai, metto l'altro. Va bene. Manuel, allora mi dico una tavola al buio, un microfono da tavola, adattarle in occhi, non si può fare, boh. Sì, se non rimane che cosa, lì ci vuole, lì puoi mettere quei microfoni esterni, c'ha là l'attacco nel fianco, se tu guardi nel fianco c'ha due specie di fori che attacchi il microfono esterno. Ma sei sicuro? Sì, sicurissimo, guarda a fianco. Manuel, non va manco un buco. Non ce l'ha quello? No. Ma se ce l'ha anche l'altro, il buffer. quello senza nulla, che ce l'hai anche tu. Boh, è zitto che vedi. Che prendo l'altro baffo, ecco qua. Manco l'altro ha i mucchi. Beh, sano, ce le dovrebbe avere. Guarda che c'ha la gomma, guarda che c'è la gomma. No, venne, né gomma, né gonzo, boh, non venne. E questo, Marù, è bene, va? No, questo è cupo. Cupo, eh? Ammazza ne varie. Aggiungo il microfono, non possiamo alcuno. È meglio l'altro che ci avevi. Questo qua rimane cupa come radio. Beh, ne provo un altro, se no le metto su. Beh, se vengo, proscendimi. Se preparazione non vengo. Sta arrivando nuovo in occhi. E vera uno che ha frusciato. Sto ascoltando. Guarda questo, Manuel, se va bene. Questo è perfetto. A scherreggia questo. Questo è quello della Kenwood. Cazzo, questa è bella, bella chiara, eh? Questo va bene, dai. Questo funziona allora. Sì, questa è perfetta. Ma tu sei Doni, che sei buono nel voltante? Noni. Cazzo, 960. Cazzo, dove è vicino a te? Ma tutti gli importanti, io lo vengo nuda, no, sul 10, Ocla, stanno mettendo il portante sul 10, 9,60. Non vedo niente qua, non lo so. Ma noi, chi ci vicino a te? Io sono vedo un cazzo, insomma. Ho acceso la baggiù per vedere che sto cazzo i buchi, ma i buchi non ce ne sono, che mi posso dire i buchi, Ma tu quale c'hai? Il buffer c'hai, scusa, c'hai il buffer. Nel fianco c'ha una specie di gomma che può attaccare le cuffie. Allora. Sì, hai ragione. Se tu siamo gli incendi. Non ci vedi, è tutto niente, occhi. Cioè, l'attacco per mettere il microfono esterno. Ma è provocazione, io sono in provocazione, insomma. Senti di nuovo, mi do rotto. E te? Mi saranno incendi luci. Allora, che sappi tu, Manuè, io ne ho due microfoni per i portatilini, sono tutte e due della Intec, ok? Che sappi tu, può andare bene lì? Non lo so, a cosa devi dire? Ce l'ha lui il portatile, a Torino. Oh, Claudio, senta caso, ci vediamo, tra mezzo e basso ci sentiamo, mi porto il portatile e si può provare. E si conferma, portati il portatile che lo proviamo, capito? Perché ne ho uno, ne ho due, addirittura uno si può mettere anche l'attacco della cuffia ed è della Ite che è piccolino, l'altro è un pochino più grande, capito? Così proviamo. Cappa, adesso lo metto in carica questo qua perché sto modulando, era già carico, non si è messo in carica, c'è il golpe. Io ne ho uno della Icon, lo stesso nuovo dentro la scatola. No, ma quello della Icon forse non va bene. Forse non va bene. Questi sono universali, dovrebbero andare bene per quello lì. Vabbè, lo proviamo. Li proviamo, intanto io non me ne faccio niente. Ok. Manuè. Ehi. No, quella gomma è un interruttore mio. Quella gomma? È un interruttore, quando io schiaccio si accende una lampadina. No, allora, tu dove schiacci, dall'altra parte c'è un'altra gomma che c'è l'attacco per il microfono esterno. Figlia, c'è lo sportellino, l'ho aperto, ecco così. Sì, c'ha due fuori, uno più grande e l'altro più piccolo. E vedi, tutto ti devono dire, Ma che cazzo hai mai trattato di questi cosi, L'attacco dei microfoni esterni sono uno piccolo e uno grande, perché uno è la ricezione e uno è la trasmissione, capito? Caparia, tra. Era lo sportellino che l'ha chiuso, l'ho aperto e sì, ci sono due fuori infatti, uno grande e uno piccolo. Vabbè, aspetta uno, te lo pulisco che era dentro lo garascio, è un po' garito binghinoso, l'altro è nuovo, aspetta. E poi nel microfonino esterno puoi attaccare anche le cuffie. E si conferma. Vedi, Emanuele è sempre attaccato a riviste, internet, sa tutto di tutti, che E non è attaccato a internet, vi la vivo i segosi, quando ero sopra. Vabbè, no, io non ho mai avuto i segosi, ma cosa mi dice la frequenza io, ma... Tu la conosci la frequenza, qual è? Questa? Sì, dove, come ti sta segnando a te, 446... 81. 081.25. Va bene, va bene, già va bene. No, punto 00, cla. No, è il canale 7 segna. Allora, te lo dico subito. Eccola qua. 446081.20. Punto 2, punto 2. No, è punto 00 la frequenza. Punto 00. Sì. R e poi c'è 7 e poi c'è scritto RUB. Cava, cava, va bene allora. Il Torino c'ha quella frequenza lì lo stesso, 44460.08.01.00. E vabbè, allora ci sbagliate, già va bene. Cava, cava, cava di Rogero. Dai, arrivo subito che ti pulisco quel microfono. Poi, ma noi cosa vuol dire RUB? Boh, va a rubare? Va? C'è scritto, allora, PMR 7, poi sotto c'è RUB, R-U-B. Boh. RUB, RUB. Boh, non me lo ricordo, è da vedere. Boh. Oh, yeah, cazzo, con quelle mutande io, boh. Ancora caldo c'è fuori? Caldo. Cazzo, c'è 32 gradi. Ma gente, mi sono svegliato contrasalto qua. Ho detto, ma io devo andare a lavorare, come c'è il sole già alto? Ma però sono in fede, cazzo. Ma a casa che è tardi. Mi gioco dormito, siamo di manzano. Boh. Vedevo loro giocherò le 6 meno qualcosa. Ma è strano c'è il sole così alto qua. Tu pensa che ero dormito profondamente quando mi ti svegli a soprassalto. Boh, non comprendi se hai mangiato il cira, boh. A che drume di profondo. Stanco, ma non è tutta la mattina, cazzo. Ogni mattina ti alzi alle 5, perché andavo a prendere anche a Gianni e compagnano, capito? Ma deve essere che l'ha compresa, perché mi ha detto, no, poi vado domani sera a lavorare, non ci vieni a prendere, mi prendo il tram, non ti preoccupare, ti ho detto, sono in ferie. No. Rimane così, tranquillo, ti riposi un po', cazzo, boh. Cazzo, non affessi così, mi accuri due, lo bisogno. E tra frascendi, Gai, l'amico due. Amico se vuoi, Me, a niente. Cazzo di Fallo avvisare. Ah? Fallo parlare. Se può farlo di ex. Ma che cazzo di ex? Oh, yeah, c'è tanto di gallura. Gio Maria, sì. Pari due. Sarà dormito? E procedi, Ne abboltante. Boh. Cazzo, ne abboltante. Cazzo, chi ce deve essere incazzato me? Foto scala qua, Sì, anche qua. O va qualche cosa sotto, che mi è impossibile a me. Cazzo, ho dovuto passare il volume, me la succede. Cazzo, non è più entrato, Vito. Cos'è, Tony? Non è più entrato. E ava ciambagana, ava prova a frusciarsi. Vabbè. Che frusciarsi? No, non l'ho trovato. E cosa? Non è una sua canale, boh. No, se no già si era inteso, mi lasci ganare. Devo bloccare questo cavo qua, all'interno se ne scende e devo tirarlo io. Qual è il cavo? Il cavo di questo Maufen, perché praticamente io sono coricato, no? L'ho fatto entrare dentro il mobile, che c'è un mucco che c'entra tutti i cavi, c'entrano. E questo praticamente, siccome scorre troppo indietro, non l'ho bloccato, quindi devo dire, lo cavo io in fuori, per arrivare da vicino a me. Ah, e bloccano una fascetta di buone. O una molletta forse meglio. Una molletta se ti rimane fermo. Sì, perché più grande del buco la molletta te lo blocca, capito? E Claudio invece sta pulendo il microfono. Sì, è un cos'è pulendo, la bulivapo. E che hai petta? Che mi sarà polvere, ma l'avrei pulito io, non c'è problema, vai. Beh, col microfonino è più comodo. Beh, è una sta cosa. Oh, c'è un cimè con un furgone e poi una banda, l'aria condizionata, ah, che bello. Come scivo fuori, cara? Mamma mia, troppo gaccio, cara. Non vedo l'ora di entrare in macchina, torra. Cazzo, tu bisogna dentro la macchina, ti vuoi fare. Comunque, da noi, se io tocco il furgone, lo vado a busciare la mia, lo sai. E anche da noi era così, nella vigilanza. Se toccavi, dovevi sistemarla tu. Da così mi Tony, perché sono tutte leasing oramai con le macchine, capito? Sono leasing plan, si chiama il sistema, e quindi se li fasci la baghi, la debiteggiani, loro c'hanno la casco, ma a te te la debitano. Sì, infatti ho avuto un incidente, ma la colpa non era mia, non ho pagato niente, ho pagato tutta l'assicurazione. Sì, è un doblò maxi quello che ho io, nuovo. Lo so, l'ho visto, te l'ho detto, li ho visti col doblò nuovo, te l'ho detto. Quando ho trovato quell'amico tuo su a Serrasecca. Eia, sì, anche a noi ci facevano firmare, io ne avevo una mia personale in dotazione, non la prendeva mai nessuno. Prima di prendere hanno fatto tutte le foto, dentro e fuori, dentro la macchina potevo fumare, c'avevo un sacco di vincoli. E automaticamente se facevo qualche graffio, qualche danno, era a mio carico, capito? Sì, ma claro, allora, da una parte giustamente fanno bene, perché tu ci devi tenere praticamente al mezzo che ti danno, perché da noi tempo fa tutti passavano le macchine e quindi se la fotti attorno alla macchinetta, contravenzione, alla fine cazzato lo direttore, dice beh adesso chi prende la multa si la paga e chi tocca la macchina la paga, però c'è un fattore, se hanno la situazione del casco loro sono di russi, se le mettono in tasca. Ho capito, però sai qual è il problema, che in pratica come si dice, ce l'hai in dotazione tu e quindi devi custodirla tu, capito? No, beh, la casco a te te rivolgono esetto, te rivolgono esì, perché hanno deciso così, tutte le aziende stanno facendo così. Poi loro la fanno riparare, se è danno tuo che hai causato tu, paghi due di busciacca, se no paga l'assicurazione. Infatti questo, il furgone il figliuccio del direttore. E infatti Michele mi ha detto che di giusto. A tuo mi raccomando, non dare nessuna macchina, vedrai consegna tu, io sono in ferie il 10 settembre, vabbè. Sì, perché c'è scritto, capito, c'è scritto, c'è un foglio all'interno dove ci sono chi conduce la macchina. E in caso ti dovessero fermare, siccome una macchina aziendale in leasing, devi portare appresso sempre quel foglio. No, aspetta, noi abbiamo un libretto che c'è scritto il giorno, la data e i chilometri che percorriamo e chi la sta guidando. Sì, anch'io ce l'avevo nell'ordine di servizio, capito, il percorso. Vabbè, noi c'eravamo satellitare, quindi non potevamo scappare, in caso contrario ricevevamo telefonate a gogo, come mai è lì, cosa sta facendo lì, perché è fuori zona, capito, e vi dare un sacco di spiegazioni. Io ero l'unico che mi spostavo molto fuori zona perché avevo un sacco di zone diverse dove loro manco ne sapevano e quindi non mi chiamavano quasi mai, a volte me lo dicevano, ma c'era il percorso alternativo fatto oggi, sì, non ne avevo voglia di stare in mezzo al traffico, problemi ci sono, no, e allora vai, girami i bibiditi. Cavolo. Ovviamente, vabbè, comunque, da noi c'erano già, infatti c'è una persona che già 3-4 volte che finiva di pagare i danni, gli toglievano un tot al mese e subito ne apriva un altro. Troppo distratto, sempre lui, dice uno può capitare, ok, ma cazzo sei prieto, le macchine che ha distrutto, guarda, infatti quello gli hanno tolto, macchine non le può più avere, non può neanche più guidare, il direttore dà sicuramente, non le date macchine in mano. E anche da noi c'era qualcuno così, un po' distratto, un po' gobaradazza, ne ha dato le lampava che lampioni, fede retromacce, lampava di Gancelli, capito, e alla fine non ne hanno dato più macchina. È normale, sono mezzi nuovi che costano un pacco di soldi all'azienda, perché sono in leasing, quindi, capito, costano, al giorno costano, e quindi è chiaro che loro si devono rifare, normale. Avanti, Emanuele. Ma anche quando ero in servizio, anche io in vigilanza, lo stesso, quando ti davano le macchine dovevi stare attento e si facciava il bagabidù di busciacara, te lo toglievano dalla busta a paga direttamente. Tu pensa che la Danone di quelli lì ne ho preso 15, senza contare poi 5 di quei camion di Thomas Scott, che se poco sommano, era ricondizionato a serio venduto 31 belli, Tony, sono cifre basse, noi eravamo 59.000 dipendenti, quindi ti ho detto tutto. Sono in Sardegna, eravamo 800, quindi immaginati tu le macchine che c'erano. Immaginati tu, adesso sono tutti fiorini ultima serie, quelli nuovi. Doblò ce n'è qualcheduno, ma di solito sono tutti fiorini e poi le Pande nuove. Agli assistenti avevamo le Pande, due posti, quelle vanne, ultima serie, quelle nuove nuove. Mentre gli operatori, i conduttori avevano il fiorino, perché avevano l'attrezzatura all'interno, quindi c'era più posto, capito? Io avevo solo pochissima roba, roba di campionamenti, roba di contattori, roba così piccola, capito? Va bene, va bene, beh, non entra nessuno che c'è BMR, ragazzi, avete voluto BMR, non ve nessuno. Attenzione PMR, c'è qualcuno? Tutti pariti già, pure in occhi. Tutto tace. Su 10 è uno che fischia ogni tanto, boh. Non sento, deve essere dalla parte vostra, non arriva qua, no, boh, non lo so. Non lo so, non lo so. Ehi, vabbè, tu pensi non bisogna nessuno, ma poi vuoi entrare col landing, non vuoi entrare. Entrate, entrate, entrate fratelli. C'è posto per tutti. Entrate fratelli. Dica. Speriamo che gaggerai poi della riva, Emanuele. E poi un'antenna attaccati. Io già vi ragione l'albero della bera. Ma se ci deve moglie, diciamo, ma scusa, ma quell'albero non è delle olive? Ma tu vedi, non ho visto le olive piccoline attaccate. No, a me sembra un albero di antenne. ma adesso questo le metto, faccio come ho fatto la mantova. La metto bene, la tiro su, perché ho anche difficoltà a citare i punti, se voglio fare due chiacchiere, troppo bassa, faccio uno scavettino con il crocevento, un botto di dinta, se lo curo dentro metto un piantone e tiro su un palo e ne la tolgo dall'albero, attacca da un ramo. Forse anche per quello, magari, vabbè, attacca dall'albero ad un ramo, se scendi vai. Comunque l'albero di banane mi giuisce. No, no, no, sono troppo storte, sono così che non avevo i banani dritti. Mi fermo a dressare, mi fermo qua. Speriamo, entra anche tu a dressare banani. Ciao Mari! Ciao Maria! Ha detto va via niente il parito, cazzo, buh! Ha detto beglienti! Un beglienti di chi fai? Buh, così hai detto. Ah, dice che le ha arrivata la gente. Mi ha detto che arriva il biglietto, a me non verrebbe nessuno in occhi. Che ci sono in occhi? Allora che va bene in occhi? Allora mania. No, io, cioè, a me qualche amico di fammi vista non esiste. Devo andare io a prelevarlo, allora sì, tutti i canti da coglio. Ma così è, deve andare a fare tu il prelievo. Ma il prelievo ci fate da ripilare, però. E infatti ha imparato a non prelevare più a nessuno. Hai fatto bene. Ah, va bene, ognuno si deve muovere da solo. Se vuoi ti raggiungo, ma no, va bene, vieni a prendermi, a portarmi, non è una cosa vedda. No, ma qua già passa ogni tanto qualcuno. Solo per esempio lo è Magnà. Come stai? Come lo stai? Castellotto di gira, viene a girarmi le balle. Posa di là. A me fa i piaceri, vabbè, Monica, ogni voce viene no che dormì, mettiamo in contatto e manda a me. Qualche volta mi regalo un cane e poi si andando a mi rompe le balle, anche sui cani si mangia tutto. Ma che cane è? Grande? Ma cosa grande? Cazzo è tipo i miei, però è... Cazzo è pesante, a palloncino, ma è un fiato, pare, ma non è com'è? Cazzo un palloncino, Bisogna stare attenti così, soprattutto in questo periodo caldo non bisogna andare a mangiare molto. Ehi, i miei d'inverno fanno due pasti abbondanti. I miei, non sono i miei, il mio d'inverno fa due pasti, non abbondanti, invece con il mio giro fa due pasti abbondanti, ma sono cani grandi. Adesso col caldo mangiano una volta solo, capito? Che ore sono? Le 7, fra un po' verso le 7:30 le do a mangiare, e boh, le cambio l'acqua, tutto, le ho già pulito tutto il recinto, tutto bagnato con l'acqua, capito? E mangiano la volta giù, se no mangiamo anche la mattina, verso mezzogiorno, e poi mangiamo la sera verso le 7:30, 8, capito? Però è troppo gatto, è meglio che stia a digiuno il cane, che non sia molto pesante, mi. No, i miei corrono un bel, dice, come fa a tenere così magri? Cosa ne so, tu ne dai mangiare...